2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 13 e 14 luglio 2013. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Ogni settimana ci domandiamo e domandiamo ai nostri esperti come la tecnologia ci cambia la vita. Più tardi ci occuperemo di telecomunicazioni, ci sono parecchie notizie relative al mondo delle TLC che vedono al centro Telecom Italia in questa settimana. Ne parleremo più tardi con un ospite. Adesso invece parliamo di un esperimento, un test che ha funzionato a Parma per la prima volta in un contesto urbano, quindi in una città con vie trafficate di automobili, semafori, rotonde, biciclette, pedoni, eccetera, eccetera. Bene, in tutto ciò, in un contesto del genere, ha viaggiato un veicolo automatico, quindi un veicolo che non è pilotato a distanza, ma che reagisce automaticamente e autonomamente a tutto quello che vede attorno. Stiamo parlando di una sperimentazione che è stata presentata dal VisLab, il laboratorio di visione dell'Università di Parma, nonché uno spin-off dell'Università di Parma, diretto dal professor Alberto Broggi. Benvenuto, o meglio, bentornato a 2024, professore. Grazie, grazie, salve. Voi lavorate sui veicoli automatici da parecchio tempo, noi ci sentiamo da qualche anno, ormai sono più di 10 anni? Sì, ormai sono direi quasi 15 anni. Il primo test che abbiamo fatto è stato proprio 15 anni fa, nel 98, nel giugno del 98. Quindi non siete sicuramente dei novellini di questa tecnologia. Voi da sempre, lei in particolar modo, avete utilizzato la capacità di visione delle macchine, quindi di videocamere fondamentalmente, per pilotare veicoli automatici. Voi in questa giornata, che direi storica per l'Italia, per la ricerca italiana, ma anche per il settore dell'automobile, avete presentato e avete non solo presentato, avete fatto proprio girare per le vie di Parma un veicolo completamente automatico. Beh, intanto di che cosa si trattava? Di un'automobile vera e propria? Sì, è un'automobile normale, una normale berlina, motore benzina, quindi non c'è nulla di particolare, sulla quale invece abbiamo installato delle telecamere, dei laser e dei calcolatori. E tutti i sensori acquisiscono le informazioni dell'ambiente e inviano queste informazioni al calcolatore di bordo, che le elabora e poi, diciamo, deve prendere delle decisioni sulla base dell'ambiente circostante. Quindi se capisco che di fronte c'è una bicicletta, un motorino, un semaforo rosso, una rotonda, il veicolo deve reagire di conseguenza. Quindi se c'è da dare la precedenza deve fermarsi, modula la velocità, sterza e insomma fa tutte le cose che normalmente dobbiamo fare quando guidiamo in ambiente urbano. Quanti chilometri avete fatto? Oggi sono 13 chilometri qualche cosa di una parte extraurbana, una parte sulla tangenziale e una parte in città, nella zona diciamo interna della città di Parma, e abbiamo passato rotonde, passaggi pedonali, pedoni che attraversavano la strada, biciclette, addirittura dei tunnel, insomma tutto quello che c'è in una città. Quindi avete garantito alle autorità un certo livello di sicurezza, perché vi hanno dato l'autorizzazione a fare tutto ciò. Avete fondamentalmente detto alla macchina: parti da A e devi arrivare a B? Esattamente, siamo partiti dal campus universitario che sta nella zona sud di Parma, in periferia, e abbiamo messo come destinazione la piazza centrale di Parma, e il veicolo appunto ha fatto tutta la tangenziale intorno a Parma, è entrato nell'area urbana e poi insomma si è divincolato in mezzo a tutte le stradine e rotonde e fino ad arrivare in piazza, dove poi c'è stata l'accoglienza e è terminato il nostro test. Il veicolo lo avete seguito o lo avete aspettato fiduciosi in un punto? Dunque no, a bordo eravamo io e il rettore dell'Università di Parma come passeggeri e poi eravamo seguiti comunque da una nostra macchina e dalle macchine della polizia, ma solo seguiti, non anticipati, perché un requisito importante che ho sempre sottolineato è che il veicolo era un test, dovevamo testare la capacità del veicolo di affrontare il traffico normale, quindi se avessimo avuto o un blocco del traffico o qualcuno che ci precedeva, questo avrebbe in qualche modo interferito col traffico normale, e invece l'importanza di questo test era di provare a vedere se il veicolo ce l'avrebbe fatta a gestire tutte le situazioni anche impreviste del traffico cittadino. Quindi stiamo dicendo che il veicolo automatico effettivamente funziona e reagisce a tutto quello che accade normalmente in una città. Certo, esattamente. Diciamo che non abbiamo ancora risolto il 100% dei problemi. È stato un buon passo avanti questo, perché appunto abbiamo dimostrato che sappiamo gestire molte delle situazioni urbane. Non tutte, perché ad esempio ci sono alcune situazioni che ancora non sappiamo gestire, ancora il veicolo non è capace di fare, come ad esempio le rotonde molto grandi a multicorsia. In questo caso sono tremendamente complesse anche per un guidatore umano, e il veicolo ancora non è in grado di riuscire a capire e intuire le intenzioni degli altri utenti della strada quando sono sulla rotonda. Quindi questa ad esempio è una situazione che dobbiamo ancora studiare. Stiamo parlando di una macchina che costa, chiaramente stiamo parlando di un prototipo, però già qualche ordine di grandezza lo possiamo dare, che costa moltissimo, perché uno dice vabbè, avete utilizzato tecnologie incredibili che costano un sacco di soldi, ci credo che siete riusciti a fare un veicolo completamente automatico, e quindi poi passare alla industrializzazione di un prodotto alla portata di tutti diventa complicato. O invece stiamo parlando di tecnologie tutto sommato abbordabili? No, la nostra filosofia è appunto quella di utilizzare sensori di basso costo, è tutta la parte elettronica di basso costo, e non utilizziamo dei laser che sono utilizzati da altri veicoli di prova, altri veicoli automatici in giro per il mondo, ma noi stiamo utilizzando sostanzialmente telecamere. E abbiamo posizionato delle telecamere, microtelecamere, a bordo del veicolo che guardano di fronte, di dietro, di lato, e attraverso l'analisi delle immagini il veicolo è in grado di capire cosa c'è intorno. Quindi l'obiettivo che abbiamo noi è tenere il costo del sistema basso, per poi facilitare l'integrazione futura e la trasformazione di questa tecnologia in un prodotto. Quindi stiamo parlando di una somma di cose che costano poche decine di euro l'una. Ah, basta pensare che un sensore di una telecamera costa 8 euro, un sensore della telecamera, poi chiaramente intorno al sensore bisogna mettere le ottiche, bisogna metterci la parte di elaborazione, il box, insomma il costo aumenta molto di più, però non stiamo parlando dei $70,000 di un sensore laser come quello che sta usando Google sulle sue macchine. Passare da questo prototipo ad un'automobile completamente automatica, poi c'è tutto il tema della legislazione, della regolamentazione, ma questo è un tema di cui ci occuperemo in un'altra occasione. Ecco, passare a un prodotto acquistabile sul mercato, che cosa comporta anche in termini di tempo? Quanti anni ci distanziano da questa prospettiva? Ma nel settore diciamo che siamo tutti abbastanza concordi nel pensare che tra una decina d'anni potremmo avere, forse anche qualche anno prima, potremmo avere veicoli di questo tipo che possono guidare in modo automatico in zone particolari, per particolare intendo sull'autostrada. Quindi potremmo pensare di avere una corsia dell'autostrada, ad esempio, dedicata ai veicoli automatici, dove ad esempio possono andare molto veloci, possono andare molto vicini tra di loro, magari con della comunicazione interveicolare per poter comunicare lo stato della strada di fronte, quindi un sistema tipo treno, e questo potrebbe essere tra, dicevo, anche meno di una decina d'anni. Pensare invece di portare questa tecnologia nell'ambito urbano, questo richiederà sicuramente qualche anno in più, qualcuno dice 15, qualcuno dice 20, sì. Però non siamo lontanissimi, se pensiamo che il veicolo ha 100 anni, pensare a 20 anni non è tantissimo. Sì, passano molto velocemente, purtroppo. Che tipo di altre applicazioni ci sono al di là dei veicoli, cioè delle automobili? Sì, ci sono tantissime applicazioni di questa tecnologia, sarà veramente una rivoluzione. Ad esempio la principale che mi viene in mente è l'applicazione nell'ambito agricolo, cioè avere trattori o macchine da campo che si possono muovere sul campo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza bisogno di nessuno che le guida o che fa la supervisione. E questo, ad esempio, se si applica ai terreni sconfinati dell'Argentina, del Brasile, dell'Australia, vorrebbe davvero dire riuscire a sfruttare il terreno in modo assolutamente unico. E questo, diciamo, sono convinto sarà una rivoluzione, perché questo vuol dire davvero cibo per tutto il pianeta, per tutti. Certo. E un'altra applicazione tremenda è l'applicazione di queste tecnologie nei settori dove ci sono veicoli che si muovono in condizioni difficili, cave, miniere, ambienti ostili per l'uomo. E in questo caso avere un veicolo che si muove da solo toglierebbe il guidatore dal veicolo, eliminando una grossa fonte di pericolosità. Sì, sicuramente è una prospettiva molto interessante. Stavo pensando che noi in Italia produciamo trattori, produciamo camion, produciamo anche automobili. Siete in contatto anche con l'industria nazionale o poco? Difficile? Assolutamente sì. Siamo in contatto con tutti, sia con l'industria agricola, trattori, sia con l'industria automobilistica, sia con le altre industrie. Ad esempio, lavoriamo con aziende che fanno muletti automatici. Sì. Muletti che si muovono all'interno di edifici per spostare merce. Siamo in contatto con molti, anche italiani, diciamo soprattutto stranieri, ma perché il mondo è più grande dell'Italia, tutto qua, certo. Però anche italiani. Insomma, quindi è una prospettiva interessante. Bene, visto che avrete lavoro per almeno i prossimi 10 anni per portare i veicoli sulle strade, buon lavoro e naturalmente anche in bocca al lupo. Grazie mille, crepi. Adesso per noi una selezione delle principali notizie della settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda il mercato internet italiano. Passa agli egiziani di Orascom l'italiana Dada, finora di proprietà di RCS, che evidentemente vuole concentrarsi sulla carta, sul business dell'editoria tradizionale. Orascom, tramite Libero Acquisition, comprerà il 54% della società, sborsando 55 milioni di euro. Orascom controlla in Italia altri marchi come ad esempio Libero, 1254 e il famosissimo Virgilio. Digital News. Sarà in vigore dal 27 luglio il regolamento Consob sul crowdfunding, cioè la raccolta di capitali online per le start-up. L'Italia è il primo paese al mondo a dotarsi di una legislazione sul settore, il cui scopo è prevalentemente la tutela dei risparmiatori. Digital News. Nokia ha presentato un nuovo smartphone della serie Lumia, punta sulla fotografia. Il nuovo Lumia si chiama 1020, ha una fotocamera pensata da 41 megapixel e presenta una serie di funzioni evolute per un telefono, come ad esempio le ghiere virtuali che consentono di impostare manualmente diversi parametri di scatto, come l'esposizione, il bilanciamento al bianco, l'otturatore e persino la regolazione del fuoco. Questo smartphone sarà disponibile in Europa e quindi probabilmente anche in Italia entro la fine di agosto. Continua a perdere quote il mercato dei PC. Secondo gli ultimi dati pubblicati da Gartner, le vendite del secondo trimestre 2013 rispetto allo stesso periodo 2012 sono calate del 10,9%. Tra i produttori ai primi due posti ci sono Lenovo con una quota del 16,7%, HP poco sotto alle 16,3% e Dell con l'11,8%. Microsoft ha lanciato una riorganizzazione per cercare di essere più incisiva nella competizione con Google ed Apple. Prevalentemente l'azienda verrà organizzata per funzione e non per prodotto, quindi ad esempio non ci sarà più la divisione Windows, che è un prodotto, la divisione Office. Steve Ballmer ha scritto un'email ai dipendenti, parla di Microsoft One, per spiegare che bisogna remare tutti nella stessa direzione per creare un'esperienza utente unica su tutti i terminali che oggi il consumatore utilizza. Alcuni funzionari della Commissione europea hanno condotto ispezioni a sorpresa in varie compagnie di telecomunicazioni in giro per l'Europa questa settimana. La Commissione vuole capire se qualcuno stia violando le regole di antitrust europeo che proibiscono l'abuso della posizione dominante di mercato. Le indagini hanno riguardato per il momento Deutsche Telekom, Orange e Telefonica e puntano a verificare se queste aziende abbiano bloccato o fortemente limitato la banda a servizi che fanno largo uso di banda, come ad esempio quelli video. Vedremo se le ispezioni riguarderanno anche altri operatori e se riguarderanno anche operatori italiani, perché la Commissione ha detto sono ispezioni a sorprese, continueranno. Intanto in Italia si apre un nuovo fronte di scontro fra Telecom Italia e quasi tutti gli operatori alternativi, quelli che forniscono collegamenti ad internet. Perché Telecom ha cominciato a tagliare il rubinetto a queste società e a fare quello che i tecnici chiamano de-peering. Allora, sappiate che il traffico in internet passa da una rete all'altra, da un operatore all'altro, senza grandi restrizioni. Per tradizione, insomma, gli operatori si scambiano il traffico ed è questo il bello della rete internet. Ma ora Telecom per questo traffico, almeno per una buona parte degli operatori, vuole essere pagata. Allora, il risultato, visto che questa decisione è già stata presa, comunicata e già viene fatto, questi rubinetti sono già stati tagliati, quindi è stato ridotto il traffico, il passaggio tra la rete di questi operatori e Telecom Italia e viceversa. Allora, il risultato per il momento è un peggioramento della performance media di tutta la rete internet in Italia. Magari alcuni ascoltatori l'hanno già verificata, cioè ci si mette un po' più di tempo per raggiungere alcuni siti internet. Allora, vedremo poi se la protesta degli operatori farà scattare anche un'indagine delle autorità di controllo su questo atteggiamento, che è legittimo perché non c'è nessuna regolamentazione di questo rapporto tra operatori, ma naturalmente anche in questo caso bisognerà verificare che questo grande operatore Telecom Italia non abusi della posizione dominante. Quindi rimandiamo naturalmente tutto alle autorità di controllo. Ma il settore delle TLC è stato scosso questa settimana da un'altra notizia, magari anche questa l'avete sentita. Allora, l'AGCOM, l'autorità per le comunicazioni, ha aggiornato il prezzo all'ingrosso col quale Telecom Italia affitta il cosiddetto ultimo miglio, quindi quando noi compriamo un servizio ADSL, ma anche semplicemente un servizio telefonico da un operatore alternativo a Telecom Italia, beh, il cavo che arriva nella nostra casa fa parte della rete di Telecom Italia e per quell'ultimo pezzettino, quindi dalla rete dell'operatore alternativo a casa nostra, Telecom Italia affitta il cavo. Questa rete, essendo una rete unica, è regolamentata da un'autorità che con una certa ricorrenza aggiorna questi prezzi. Allora, questa può sembrare materia da addetti ai lavori, ma visto che stiamo parlando poi di un servizio che tutti noi utilizziamo, quindi il telefono o la DSL, questo prezzo ha una conseguenza anche, serve per formare la bolletta che noi paghiamo tutti i mesi o ogni due mesi. Cristoforo Morandini è partner di Between, una società che da molti anni segue e studia il settore delle telecomunicazioni. Bentornato a 2024. Buongiorno a tutti. Questo prezzo, che tecnicamente viene definito di unbundling, che comunque, come dicevo, è il prezzo all'ingrosso col quale Telecom Italia affitta il cosiddetto ultimo miglio, è importante, può essere importante anche per quello che noi paghiamo in bolletta, quindi perché dovrebbe e potrebbe interessare anche al consumatore finale? Beh, in una battuta, intanto perché questi prezzi scendono e quindi ci aspettiamo benefici per il consumatore. Ma quello, mi spiego meglio, in un'economia di mercato il prezzo finale dei beni e servizi che paghiamo dipende naturalmente dal costo dei fattori produttivi e anche dal livello di concorrenza. Nei servizi di rete in generale e nelle telecomunicazioni in particolare, una componente molto importante, come stavi anticipando tu, è legata ai servizi all'ingrosso che il proprietario delle infrastrutture realizzate negli anni, quindi Telecom Italia, fa pagare ai nuovi operatori. Si tratta appunto del costo di affitto per queste infrastrutture o servizi all'ingrosso che Telecom Italia fa pagare. Quindi se, come è accaduto, questi prezzi dei servizi all'ingrosso scendono del 5, 10 fino a oltre il 20%, ci aspettiamo naturalmente che una parte di questo calo, almeno una parte di questo calo, si ribalti sul consumatore finale. Qui vale la pena però anche di ricordare come oggi abbiamo l'impressione, no, che tutto aumenti, dalla pasta al pane, tutto. Negli ultimi 10 anni nelle telecomunicazioni abbiamo visto una discesa del prezzo, per cui ad esempio la banda larga costa oggi metà o anche un terzo di quello che costava 10 anni fa, con delle prestazioni che si sono moltiplicate per 10. Quindi siamo in un settore che è fortemente deflazionistico, è una caratteristica delle telecomunicazioni. È quasi strano quello che sta accadendo, ma continuiamo a vedere una discesa dei prezzi che oggi è ulteriormente accelerata per questo effetto. Sì, questo è sicuramente molto interessante. Stiamo parlando di una decisione di un'autorità che fa calcoli e quindi non è una decisione politica, ma una decisione tecnica, giusto? È una decisione tecnica che è basata su quelle che sono le analisi dell'evoluzione dei costi della rete di Telecom Italia, per cui laddove ci sono delle maggiori efficienze di rete, questi costi si ribaltano su una diminuzione dei prezzi all'ingrosso e a loro volta sui prezzi al dettaglio. Quindi speriamo che nei prossimi mesi ci sia per tutti noi consumatori qualche offerta in più su questi servizi. Bene, grazie a Cristoforo Morandini per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Arrivederci a tutti. Secondo Telecom Italia, la proposta di riduzione dei canoni di accesso alla rete in rame decisa dall'Agicom presenta profili di contrasto rispetto al quadro europeo. Naturalmente Telecom Italia ha criticato fortemente questa decisione. Va detto che comunque questa decisione conferma quello che gli operatori alternativi o la stessa associazione degli internet service provider dicono da anni, cioè che il prezzo di accesso di questo unbundling era troppo elevato a favore della sola Telecom. Vanno dette altre due cose, perché se esiste un evidente profilo positivo di questa decisione, alcuni avranno sicuramente brindato, ne esiste anche più di uno negativo. Allora, riguardano Telecom nell'immediato e la rete Telecom nel futuro. Allora, nell'immediato il calo di questa tariffa ha un impatto calcolato dalla società in almeno 100 milioni di euro all'anno. C'è chi ha fatto calcoli ancora più pesanti e questo potrebbe comportare tagli ai fornitori e anche tagli di personale. Sicuramente questi sono dati da tenere in considerazione, non sono certo positivi. Ma ci sono molte altre cose da dire, perché se buona parte dei ricavi della rete di accesso di Telecom si basano su queste tariffe, il valore della rete diminuirà di conseguenza. Ecco allora che questa decisione ha un impatto diretto sullo scorporo deciso da Telecom Italia. Sapete che Telecom ha deciso di creare una nuova società all'interno della quale andrà a confluire questa rete di accesso, che è fondamentale per l'equilibrio e lo sviluppo delle telecomunicazioni in Italia. Di questa società dovrebbero diventare azionisti altri soggetti, quindi altri operatori, la Cassa Depositi e Prestiti, se ne discute da molto tempo. Certo è che la rete a questo punto non vale più X, vale X meno qualche cosa, quindi questa decisione e questa dinamica che è cambiata fortemente cambia anche tutte le carte in tavola del dibattito, un dibattito sicuramente anche molto politico per il futuro delle nostre telecomunicazioni, per lo scorporo della rete Telecom Italia. Torneremo a parlarne, capisco che alcuni passaggi di questo tema sono piuttosto complicati, piuttosto complessi, ma visto che si dice spesso che oramai le telecomunicazioni sono il servizio trasversale e di fatto sono e rappresentano la competitività di un paese, e visto che attraverso lo scorporo della rete si deciderà lo sviluppo delle telecomunicazioni in Italia, penso che questo sia un tema di cui dovremmo, tutta la stampa italiana dovrebbe parlare molto di più, perché i cittadini siano consapevoli di quello che succederà nei prossimi anni. È tutto per questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione, ci trovate in podcast, appuntamento alla prossima settimana. 2024.